in the winter, steer the coupe from the center. Who gives a fuck, I'm a sinner. I had dreams of fucking Carrie Hilson in my Dunkin's. Woke up naked at the Hilton with a bitch that looked like Seal's cousin. Bite the eel by the dozen. Gotta take it for the team. Bite the eel by the dozen. Punk the bass in the trunk, shit rattle like a baby hand. Except this toy costs 80 grand. And I'm crazy tan from all the places that I've been. Just for writing words with a pen. Tell the pilot, land the plane. No Roosevelt in Maine. Put a jacuzzi on the 7 train and lay John Coltrane play with that cocaine face. I know your crabs from that old bay taste. The brass band with 7 pieces. My bitch's name is Peaches. We got twin Mac 11s with the features. Shit, you barely got sneaker money. So much dick in their mouth, that's why these motherfuckers speaking funny. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. Shit, the Magic Johnson of the game. These lanes don't wanna play with me. Smile on your face, but I really know you hating me. I know you're mad cause I'm sick and it's plain to see. It's me. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? I pay for that crib and never step foot in. And now somebody else is eating all the pudding. Things change, now my dashboard wooden. All black Benz like a young Doc Gooden. Dark shades cause I'm stone crazy. Girl, we grown, stop playing on my phone, baby. All your childish attempts to make me angry fall short, which only fuels the rage you have because you have nothing. Understandable, I'm shining brilliant with 5 Brazilians. There were times I used to hide my feelings. Now I'm butt naked in a Lamborghini and motherfuckers can't see me. Wait till this chick see me on TV. I make this shit look easy. Who would've thought I'd hit you right back? Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you? Wanna call me baby, and you wonder why the fuck did I ain't call you lately. Some would say that I'm the symbol for sex, and others would hate, but I don't give them no breath. Go on a date, I'm at the crib with the chef, and that's me. And you could order whatever. The specialty is white snake and underwear sauce. You could probably catch the summer where it's sunny next. And I understand it's only cause I'm popular. I'm getting topped off in the front row of the opera. As Bocelli sings, the celly rings. I gotta go, you'll never know how good it feels to lay in bed with King. I'm not exactly flawless, but I'm gorgeous, just like a horse is. I know the thought of me succeeding makes a lot of people nauseous. Still I'm on the back of the boat, taking pictures with the surface. Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you? Get a paper cut on your tongue from a razor and a paper cup. I hope every soda you drank already shaken up. I hope your dreams dry like raisins in the baking sun. I hope your titties all saggy in your early 20s. I hope it's always snow in your driveway. I hope you never get off Fridays and you work at a Fridays that's always busy on Fridays. I hope you win the lottery and lose your ticket. I hope it's Ben and Socrates poop all up in your kitchen. I hope the zipper on your jacket gets stuck. Your headphones short, and your charger don't work, and you spill shit on your shirt. I hope your tears don't hurt, and I can smile in your face. Cause my loss is how Delilah changed my locks to a fade. I hope you happy, I hope you happy. I hope you ruin this shit for a reason. I hope you happy. Why you always on? hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African American. I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture. You're fucking evil, I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception, but can't take down from it. And this is more than confession, I mean I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings, I know that you feel it. You sabotage my community, making a killing. You made me a killer, emancipation of a real nigga. Hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then peel out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga. Secretary bitch for the homies. Blue eyed devil with a fat ass monkey. I'ma buy a brand new Cuddy on Vos. Truck the hood up two times, do slow. Platinum on everything, platinum on wedding ring. Married to the game and the bad bitch shows. When I get signed on me, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M16s to the hood. Pass them all out on the black ones, good. I'ma put the cop to swap me by the White House. Republican run up, get signed out. Hit the press with a Cuban link on my neck. Uneducated, but I got $1 million check like that. Mi dispiace sciupare questo mood molto funk, funky, che altri che non è un po' d'estratti. Che altri che c'è? Sto parlando malissimo. Che altri che non è? Altro che non è un estratto, ovvero la, proprio la prima traccia estratta dal nuovo album di Kendrick Lamar uscito il 16 marzo. To Pimp a Butterfly. To Pimp a Butterfly. Questo potrebbe essere anche un disco per Benedetto Ferrara. Sì. Pimp a Butterfly. È vero. È roba anche sua. Uscito per Top Dog, Aftermath, Interscoop. Chiaramente Dr. Dre è il produttore esecutivo. Disco attesissimo e importantissimo. Questo pezzo vedeva il featuring di George Clinton e Thundercat, prodotto da Flying Lotus. All'interno del disco ci sono Bilal, Snoop Dogg, Assassin chiaramente nella traccia che abbiamo sentito prima. Fra le produzioni sempre Thundercat, appunto, abbiamo detto Flying Lotus, Knowledge, Pharrell Williams, insomma un sacco di gente, Terrace Martin, un sacco di gente conosciuta e un po' misconosciuta. Comunque 16 tracce, un super lavoro acclamato proprio alla grande dalla critica, e sinceramente io non l'ho ascoltato tantissimissimo, però per quello che l'ho ascoltato è veramente un gran lavoro. Un altro disco attesissimo e che sono state in pratica le prime due tracce che ho suonato sono estratte da questo disco, è Mr. Wonderful di Action Bronson, che è uscito il 23 invece di marzo. Con una copertina bellissima. Esatto, esatto. Uscito per Atlantic, quindi è il primo disco di Action Bronson su Major, Atlantic Record e Vice. Anche lui vede diversi featuring, fra i quali Party Supplies, ovvero anche uno dei suoi produttori più gettonati. Chance the Rapper, del quale abbiamo sentito la traccia Baby Blue, contiene Easy Rider, il proprio pezzone clamoroso, sì, che è stato anche il primo singolo prodotto da Party Supplies. A parte Supplies, lo stesso che gli ha prodotto diverse tracce, poi c'è Mark Ronson, Static Select, Alchemist, Shape 40, 88 Case, insomma un botto di gente, un botto veramente di gente. Ve lo consiglio, Mr. Wonderful, Action Bronson, come tutti i lavori di Action Bronson. Esatto, nel frattempo è finito il disco, disco, quindi chiaro, perché no, ho detto vabbè, avrà messo un loop, avrà fatto no qualcosa, no, lo volevo mettere e poi sono venuto di qua, quindi puoi andare, vado, vai a suonare. E niente, vi ricordo, mentre Tommy raggiunge i piatti, To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar e Mr. Wonderful di Action Bronson. Sono veramente due dischi, e beccatevi anche tutti i video estratti dal disco di Action Bronson, perché insomma Action Bronson ha questa grossa teatralità nel fare i video, e quindi insomma oltre ai pezzoni vi trovate dei video super. Questo è Tommy, noi ci sentiamo più tardi per gli appuntamenti delle prossime settimane. magiche, mistiche, vibre che tu mi dai. Quando mi parli del silenzio che c'è, non so mai spiegare quello che tu mi fai. Conta solamente quando stiamo insieme. E cambierà quando arrivi tu, quando suonerai per me le note blu. Accenderai i miei occhi, sono qua aspettando che ritorni. E potrò ancora dirti soltanto che non so immaginare la mia vita senza te. Già lo sai, che mi dai mistiche vibre. Magiche, mistiche, vibre che tornano. Quando ti sento andare a tempo con me, non so rinunciare, dimmi che non dovrò. Ogni tua visione mi fa stare bene, bene. E cambierà quando arrivi tu, quando suonerai per me le note blu. Accenderai i miei occhi, sono qua aspettando che ritorni. E potrò ancora dirti soltanto che non so immaginare la mia vita senza te. Già lo sai, che mi dai mistiche vive. If I die, so pussy clock try. Danger feel stepping my way. Bodies get cremated on a Friday to do a die way. Your death threater, sender, head spinner, rap beginner, light dimmer, three knockout count winner, the gun reacher, busting shot teacher, your funeral servant church preacher, your black hearse coffin seeker, the body polluter, the gat shooter, the Brownville at Brooklyn trooper, the cock D mountain mover, the face basher, the Mr. Brain smasher, the ass waxer, the drunk money stasher, gun blaster, razor slasher, the human asthma, breath taker, body dump waster, the Glock cocker, the block locker, the rock chopper, the shot popper, the jock cock blocker, the face splitter, human disgrace getter, the lady shitter, phone joneser, sneak over fucking babysitter, the chronic smoking, gun toting Hirsch initiator, crack supplier, the human drug generator, the honey gamer, the chicken tricker, the slicker, long dick pussy sticker, the ready to bust that ass kicker, the track maneuverer, the box barrier, the off the dome rapper, the C-74 ox carrier, the gun seller, the chest sweller, the sticked up smack bank teller, the money back dweller, the stitch provider, the guest rider, the clip inserter, the bullet shooter experter, the man next to murder, the whole bitch disser, the cut man, the out on one clan, the stun hitter in 34 days and the mutt man, the front man, the Brooklyn representer, the beat down center, the two brothers, the hottest niggas out this fucking winter, the girl cheaters, the beef fast beater, the street sweet keeper, the body, the concrete meter, the blood skeeter, the weed smoker, the liver choker, the spot stop broker, the rugged pitcher poser, the guard scrap, and gals were sitting around rapping. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. I'll be the top pick of the first draft, whose wrath gets felt when opposed is dealt with dramatically. It had to be that MI smooth shit. Respect my crew get, whose rep is slept upon, dropping bombs feared like Decepticons. That's how it is when you're fucking with ex-cons, causing hysteria. I stare at y'all, you break out in a cold sweat. I got more wins than the Globetrotters. Your flow's nada, I gotcha. East Coast to the end, son. Most MCs run because my Uzi weighs 2 tons. Who got time for fun? Strategic methods, thinking backwards like dyslexics. I plan my attack while you're making records, cause rap's my fucking world, B. And if I lose, you soon to see World War III. So keep your guard up, your heart up for this win, son. But over here you won't get one, so chill and play the back seat. I rip mics before I let them go like Blackstreet. Pack heat, cause rappers wanna play big shots. Six shots, competition catch speed knots. Catch the speed knot. Catch the speed knot. Catch the speed knot. Catch the speed knot. It's the ride, y'all. Come on, we're going on the ride. It's the ride, y'all. Come on, I know you wanna ride. It's the ride, y'all. Come on, we're going on the ride. It's the ride, y'all. It's the ISC ride. R to the I, D to the E. Check out how we, the INC, get more biz than Marky as a sparky. Mic like lightning, it's frightening. I'm tightening niggas up, cause they don't know the score. Ooh, here comes the roar, knock on your door. I wonder who it is and who could it be. Ain't nobody but the INC. With more soul than the train, I'm a rain. We're 808 beast that hit big like Kane. Daddy, caddy, coupe de ville, chill. Jump in my ride and slide down the hill to see if we can catch them kids that was talking that mess and trying to impress. Nevertheless, yo, yo, I gotta let them know they can't find us, so get behind us as we cruise in the INC ride. With the crew coming through with the AC, the INC. taking shorts, cause Brooklyn's the borough. We did it like that, and now we do it like this. We did it like that, and now we do it like this. Yeah. Now, block kids, who got the cocaine? Don't tell me it's the little kids, I'm so trained. The metaphor sent from my brain to my jaw. It comes from other places, not the tinted faces. Journalistic values are yellow, and then, of course, falters. You watch Channel Zero with that bitch, Mama Walters. Should have you believe black invented crack when President Lyndon had the formula way back in 63 with Kennedy. Yes, the double cross. Remember, that's when they blow his fucking head off. Vietnam vets come back looking like one-armed pests. Nixon bombs, pure text. No picket fence, no job, no ATL in the car. Blue collar turns to bourgeois. Depressed in your chest. Demerol for cess. No dough, crack and veils, much less. White, he can sell on the corners of Bushwick. White, he can sell on the corners of Flatbush. White, he can sell on the corners of Bed-Stuy. Pass the torch to that nigga guy. So just die, nigga, die, nigga. You're too black, you can't handle, you're too strong, get high. Fly clock, next boost, you steal. In 95, we take back Emmett's Field. Let's take a sec to think back, think back. Brooklyn, traveling distance to party. Brooklyn, absent functions, not hardly. Brooklyn, the name alone holds godly. You don't know, you better ask somebody. Crackville Street since 85. The police getting paid to not bust. Hooker's drawers got crust. Allora, no, prima dicevamo, visto che era una roba sempre legata a Action Bronson, che Easy Rider, che è un pezzone e che campiona un brano di un disco turco. Ah, sì, sì. Precisamente di Mazhar-i Fuat, Sperando si pronunci così. Insomma. Sì, sì, Mazhar-i Fuat. A Firenze il turco si legge così. A Firenze il turco si legge così, no. Adimitz Miskinder Bizim è il pezzo. Se vuoi ti dico anche il quanto costa. Anche il titolo del disco e quanto costa. Il disco è il disco so pronunciare bene, però è Turkus Turku Jagras. Costa poco. Che costa poco, infatti sì. L'hanno ristampato. Infatti l'hanno ristampato a furor di popolo. Esatto. No, insomma, è Mazhar-i Fuat. È un super disco turco abbastanza ricercato e c'è questo pezzo che è, diciamo, il tema di Easy Rider ed Action Bronson. Ma passando oltre, vi diciamo un po' le serate delle prossime settimane. Che ce n'è a bizze. Esatto. E partiamo dal 3 aprile. Dal 3 aprile, che, scusami, sto guardando sul calendario. Che è venerdì. Che è venerdì. Il 3 aprile è venerdì. OTK Future Dance Floor. E auguri Ale OTK. Auguri Ale OTK. C'era Aria di compleanno. Eh sì, è un super salutone Ale OTK e auguri. Magari andiamo a fare lì di persona. Alex Emerson, CSM Ex Emerson. Ci saranno tre sale, cioè tre zone allo skate park. Chiaramente OTK Sound, Concert Hall, Pumpy Flex, Chorins, Leonard P, ICJ, Electro Organism e M4T. Mentre al bar ci saranno Zeman contro The Usual Suspect e degli Amari e anche dei succhini di frutta alla pera, per forza. Non stiamo parlando di Firenze, ma di Roma, dove si svolgerà il 18° compleanno di Cool Runnings, Sound di Fratelli, che ci hanno anche ospitato un mesetto fa a suonare nella loro location mensile in San Lorenzo. Ma compieranno il loro 18° compleanno al CSA Intifada in via di Casal Bruciato 15 a Roma, e porteranno niente meno che il live di Dance World Revolution degli Steel Pulse. Quindi, insomma, chi ha voglia di andare a vedersi un bel concerto e farsi un viaggetto, vale giovedì, giovedì 9 aprile, vi andate a beccare il concerto degli Steel Pulse. Dance World Revolution, il primo disco degli Steel Pulse. Esatto, il primo disco. Che c'ha già, infatti, una quarantina d'anni. Infatti, 40 years live show. Esatto. Il concerto sarà all'aperto, sembra, se il tempo regge. Dai. Il 9 aprile ci sarà anche una cosa che ci riguarda, giusto Tommy? Sì, eh. C'è una cosa che ci riguarda perché io e Tommy suoneremo a Rex, orario aperitivo, quindi, diciamo post-aperitivo, aperitivo post-aperitivo, post-sbornia, dalle 10 alle 2 di notte a Rex. Finché ci regge le gambe. Esatto, a Rex. In via Fesolana, quindi comunque set, se vi piace Ragnar Paisa vi beccate un po' tutte le robe che suoniamo: funk, soul, psych funk, cumbia, roba brasiliana, turca, eccetera eccetera eccetera. Che ridi? Perché si è sentito boom boom sbattere le porte. È il bello della diretta. Andando avanti, venerdì 10 aprile ci sarà un grosso evento al Tenax che vede che vede la presenza di Fatboy Slim assieme a Apron Tapes e Andrea Mee. Ingresso vietato ai minori di 18 anni, quindi Tommy, noi non ci possiamo andare. Infatti dice proprio: si prega di portare un documento di identità valido. Addirittura? Quindi, che succede? O si fa un documento falso. Ma come mai? Non si sa? Non si sa. Situazioni di... C'è la droga. C'è le nipples in the air. Ci sono le MIF. Quindi bisogna essere maggiorenni. Bisogna essere maggiorenni. Perché ci sono le MILF. Allora, siccome la Early Birds e la second release del biglietto sono già sold out, la third release sono un trentino più 2 euro di diritti di prevendita che potete prendere al box office boxhall.it. La stessa sera in secret location, ma mandando una mail a disconnectmusic@gmail.com, a un decino, però vi mandano un virus. Vi mandano indietro un virus. No, Disconnect presenta DJ Stingray. Vi dicevo della mail perché è in una secret location. Insomma, comunque si tratta di DJ Stingray, che chi è legato alla scena di Detroit dovrebbe conoscere, perché insomma si tratta di treni. Quindi la secret location può darsi sia alla stazione, può darsi sia alla stazione di Prato Vecchio. Montate sopra il treno e finita a Roma. E c'è Stingray che ancora sta suonando. Andando avanti, lunedì. Ormai andava, sono andato. Sì. Annunciala per lunedì, anche se l'annuncio. Ormai l'11 aprile, no, perché ormai ho perso proprio l'11 aprile, che è sabato prossimo. Ci sarà Grabber Soul Season 3 al Nof Club di Borgo San Frediano, Bomboos live set e chiaramente Biga DJ set e Mille Lemmi. E tu lo sai come che le. Ultima, vuoi mettere un altro pezzo? Vai a mettere un altro pezzo, perché intanto vabbè, intanto è passato. Scusate se ci dilunghiamo, però in due è un po' difficoltosa la logistica, e poi dobbiamo dire un sacco di appuntamenti che ci saranno nelle prossime 2 settimane. Comunque l'ultimo che hai messo, Liquid, certo. Grande. Questo è Cavern, eh? Certo, per tutte le milf all'ascolto. Yo, Cavern per tutte le milf all'ascolto, Liquid. Diciamo quest'ultima serata, certo, al Sonar Live di Colle Valdelsa, sabato 11, Just Station Sound System ci porta. Ma lo sai chi ci porta? Il Just Station ci porta Channel One da Londra. Mikey Dread e banda. Un decino e consumazione omaggio. E vai a star bene. Quindi lasciamo andare questo Cavern di Liquid. E intanto facciamo il cambio, magari ci sentiamo più tardi. Ci si cambia i calzini e il maglione. Per gli ultimi aggiornamenti, fra poco. Vai.

siamo quasi in chiusura. Sono ancora 5 minuti. Mi dispiace entrare sulla voce di Pacqua. Il loro disco a calico del 2013 è stato una bomba. Comunque rimanete con noi fino alle 22:30 e nel frattempo vi dico che la settimana scorsa è uscito Luna di Frank Siciliano per Unlimited Struggle. Frank Siciliano, grande artista. Andate su www.unlimitedstruggle.com, leggetevi le informazioni del caso e chiaramente acquistatelo. Poi magari avremo sicuramente occasione di suonare qualche traccia. Nel frattempo vi lascio agli ultimi brani selezionati da Puppa T, Tommy, Ragnar Paisa, e noi ci sentiamo non lunedì prossimo ma quello dopo. Ovvero lunedì 11.